Saga. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. È così repentina questa sigla che mi coglie all'improvviso dalla vita comune, consueta, dal grigiore quotidiano e mi trascina nel tempo di Melo, che non sono pronto, non sono abituato a essere preso così per i capelli dal corridoio della radio, a essere trascinato dentro lo studio nel lasso di un solo secondo. Abbiamo parlato tutta la settimana di felice condivisione. E vi sarete resi conto che questo utopico sentimento della condivisione è qualcosa che aleggia comunque nei luoghi in cui si sta preparando il futuro, in cui l'umanità organizza la sua futura organizzazione. E quindi abbiamo visto da lunedì che addirittura ci sono padri gesuiti che profetizzano che nuovi profeti si stiano muovendo nel mondo della rete, perché lì in realtà si stabilisce un principio di trascendenza che sembra completamente vuoto, vacuo, dimenticato nella società concreta. È altresì vero che le persone che si muovono nel più genuino, antico e solidale spirito della rete sono persone che immaginano che tutti i patrimoni dell'umanità, compreso il patrimonio, anzi partendo dal patrimonio dei saperi, vadano condivisi. La passione per il social networking che ha trascinato generazioni di comuni analogici esseri umani alla fantastica condivisione di spazi emotivi e anche di piaceri concreti attraverso macchine che sono propaggini dei loro sensi, dei loro desideri, delle loro aspirazioni, ha fatto sì che la condivisione, almeno come allucinazione, sia un fantastico principio, sia il segno della nostra contemporaneità. L'uomo contemporaneo è l'uomo che vuole mettere in condivisione. Condividere conviene, condividere è economico, condividere è etico, condividere appaga l'animo, condividere aumenta la gioia, condividere fa del patrimonio comune il patrimonio di ognuno di noi. Ma oggi vorrei riflettere sul fatto, poi nella vita di tutti i giorni, nel mondo reale, nel nostro banale squallido quotidiano, quanto ci costa condividere il nostro spazio vitale, l'aria che respiriamo, lo spazio che viviamo, gli oggetti che contaminiamo con il nostro untuoso passaggio? 800 24 0024. Spegnere i motori, risparmiare carburante. Spegnere i motori. Uè, ma che siamo mai? Ma non sapete che l'orina corrode la vernice? È orina infantile, pisce d'angelo. Sì, d'angelo. Ma l'ha fatto pure vicino alla macchina mia, non si vede niente. E che la chiamate, macchina quella lì? Quando è cilindrato? Quando viene su strada? Ma di che? A Giaguaro, quanto costa? E quando l'hai saputo? Per sapere. Allora? Ma che si vede che anche i suoi camerieri sono usciti con la macchina. Oddio! Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Oggi per molti sarà l'occasione per tirare un sospiro di sollievo. In questi giorni era circolata su Twitter una sorta di leggenda urbana per cui Sansonna è stato gettato nello scarico del gabinetto assieme al 2.0 che chiosava la sigla di Melo. Invece no, Sansonna c'è vivo, lotta assieme a noi e una volta a settimana, salute permettendo, stato di famiglia permettendo, suoi oneri permettendo, sarà qui con noi. E questa mattina è la persona che ci aiuterà a solcare come un aratro di fuoco il mondo della cinematografia per capire e vedere quanto in realtà ci siano dei momenti di forzata condivisione. Quanto questo fantastico annuncio di modernità che riempie di orgoglio tutti noi quando siamo alla tastiera diventa il peggiore, più pesante fardello da dover sopportare nella nostra vita concreta. Sentì cenni di un bambino che faceva la pipì sulla macchina di una persona. Di cosa si sta parlando? Siamo precipitati nell'ingorgo di Comencini del 1978, che fa un po' il verso al weekend godardiano, al capricci di Carmelo Bene, queste lamiere coatte in tutti i sensi, costrette l'una a fianco all'altra. Sei ghezzizzato durante le vacanze? Sì, infatti sto assumendo sto lottando. Sto diventando asincrono, no? vede questo bambino che orina sulla sua Jaguar e insulta la macchina dei napoletani da cui proviene questo bimbo. Sordi è un imprenditore socialista che si mostra a dire larghe vedute, salvo poi quando gli arriva una reale richiesta d'aiuto. A proposito di condivisione, lui ha il primo radiotelefono, quindi immerso in questo ingorgo è l'unico che può effettivamente mettersi in connessione con il mondo, e cerca addirittura che gli venga portato un elicottero per poter uscire, evadere da questa condivisione che in realtà lo soffoca. Nessuno si rende conto cosa significasse girare con un telefono in macchina negli anni Ottanta. Io lo so perché allora ero un semplice apprendista a radio della RAI, giravamo con la macchina aziendale e c'era il telefono in macchina, che era una sorta di macinino con delle rotelline. Per comporre il numero bisognava comporlo attraverso delle rotelline, qualcosa di archeologico. La cornetta del telefono era di quelle di bachelite nera, come telefoni che già non esistevano più nelle case, ma ancora quel radiotelefono creato e assemblato da una sezione ingegneristica di Torino della RAI sembrava chissà che. Naturalmente sentiva degli scatti tremendi, faceva un rumore bestiale, si potevano chiamare soltanto pochissimi numeri, ma quando si girava in mezzo nelle strade e si impugnava con la cornetta di bachelite nera, anno 1983, la gente si fermava, si bloccava il traffico, sembrava che stesse passando, non so, un'astronave spaziale. C'è il telefono in macchina, magari per fare una telefonata ci voleva mezz'ora. Dunque stiamo questa mattina vedendo, questo è l'esempio più lampante, in cui la condivisione che ci costa un prezzo pesante, ci costa sentire l'odore di persone che non vogliamo sentire, ci costa di vedere le improntine digitali delle manine unte insozzate di marmellata dei bambini su qualcosa che per noi è sacro come l'automobile. Quanto ci costa? Quali sono gli episodi della vostra vita in cui veramente vi pesa condividere il vostro spazio con altri esseri umani? Sì, perché magari avete 5.000 amici su Facebook, ma più di 10 persone nel vostro salotto voi non le sopportate, più di 3 colleghi nell'entourage della vostra scrivania non li sopportate, più di 2 persone che entrano nella vostra macchina con il rischio che hanno appena pestato la cacca di un cane e che hanno una valigia con il fondo che è stato trascinato, un trolley, che è la paura di ogni tassista, il trolley trascinato sullo sputacchio, sull'asfalto, e lo appoggia sulla tappezzeria del vostro sedile. Questo è un primo esempio, ma ce ne sono tanti altri. 800 24 0024. Carloni, cosa c'è dottore? Ma che succede? Perché stiamo fermi? E niente dottore, è un ingorgo, un imbottigliamento. Che è un passaggio a livello chiuso? No, è proprio un ingorgo, così naturale. Oh, lì c'è Monteposchi. Monteposchi chi, l'attore? Sì. Marco Monteposchi. Ma che me frega del chi Monteposchi? C'è? Ma è proprio lui. Marco Monteposchi. Ma sei sicura sia lui? Ma dai, fa vedere, chi è, chi è? Monteposchi, che me fai un autografo? Ah, sì! Monteposchi, sì! Dice, non vedete, ma fa vedere, vedo per fare, no? Fa signor Valeri! Grazie. Ma perché non me ne andate a fanculo? Grazie, bravi. E sì, sfasciatemi con la macchina, disgraziati. Sì, beh. Altro episodio del film L'ingorgo. Dimmi cosa accade, descrivi la scena, poi io ti dico cosa mi viene in mente ad ascoltarla. E qui c'è Mastroianni che interpreta se stesso, ovvero l'attore famoso. È un grande attore, un VIP. Sì, un grande attore famoso che si risveglia all'improvviso e si trova circondato, fermo nell'ingorgo, circondato dai fan adoranti che picchiettano un po' babbuinescamente sulla macchina. E lui mostra tutto il disprezzo che ha verso il pubblico. Poi verrà cooptato da uno che ha la casa vicino alla strada, che è Gianni Cavina, che gli offrirà impegno la moglie, che è la Sandrelli, per ottenere un posto da autista a Cinecittà. E lui, uscendo dalla casa e rientrando nell'ingorgo, dirà: l'umanità fa schifo, dirà lo suo autista. Dopo aver consumato l'autoregalo. Esatto. Dunque, io quello che mi fa pensare, la forzata condivisione con l'uomo baciato, illuminato dalla notorietà, qualora si trova in contatto fisico diretto con le persone che sono illuminate dalla sua iperpresenza, quindi vogliono toccarlo, come per un antico santo, eroe o persona illuminata, naturalmente il popolo vuole avere un contatto fisico con colui attraversato dalla grazia, dall'eroismo, dal privilegio di essere un eletto. E quindi mettono le loro mani untuose sulla macchina, già c'è un primo contatto fisico. Cavina, ancor di più, con un gesto quasi arcaico, gli offre la moglie, gli offre ciò che è più di prezioso, dice: prendi mia moglie, non ho altro da darti nella mia povera casa. E lui si stratromba la Sandrelli e naturalmente dirà che schifo l'umanità. Oggi questo rapporto, che ha in sé un peso vessatorio per colui che già è stato fortunato nella vita per essere celebre, famoso, ricco, baciato la fortuna, si consuma in un ambiente parallelo. Su Twitter è esattamente lo stesso meccanismo. Lo strafighettone, vuoi che sia Fiorello, vuoi che sia un grande personaggio, un cantante, un attore, fino all'ultima categoria degli infimi sotto VIP, a cui probabilmente appartiene anche qualcuno di noi, mette una sua massima di saggezza, quindi segnala la sua presenza su Facebook. Questa mattina mi sono svegliato, ho guardato il cielo e ho pensato, oh Dio mio, quante nuvole. Immediatamente 50.000 persone dicono, cavolo, adesso non mi viene in mente, Mister Sticaz ha scritto questo pensiero, e subito dicono a loro, sì, ma quelle nuvole sembrano un fiore di primavera, quelle nuvole sembrano un quadro espressionista, e via dicendo, si sentono anche loro di averlo toccato e contaminato, ma lui non causano nessun tipo di fastidio, quella promiscuità non pesa, anzi è una promiscuità gratificante, asettica ma gratificante. Non mi basta già essere in cima alla montagna, guardare gli altri, fargli la pipì sulla testa, ma ho anche il piacere che ogni volta che io schiocco le dita, immediatamente c'è un movimento di folla che non mi tocca, non mi lambisce, mi gratifica soltanto. 800240024, nelle vostre tristi e umili vite di esseri umani soggetti, ahimè, all'obbligo dell'oblio, perché non avete 50.000 persone che vi seguono su Twitter, come risolvete il problema della promiscuità con gli altri esseri umani quando questa vi pesa? 800240024, però svegliatevi, perché qualche telefonata mi farebbe comodo. E non si vergognano, eh? Non si vergognano. Diga? Sì, dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene? Tutta sta roba. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, ah, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Senta, ne sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti l'ho votati tutti. No, mi consente un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stata, capi più un cazzo, fatta voi! Io trovo fantastico questo film di Virzì, Paolo Virzì, Ferie d'agosto, che è del 95. Sembra scritto oggi. Non è cambiato nulla esattamente nel corso di un decennio, capito? Rispetto a quello che accadeva in questo film. Questa mattina ho sentito una discussione tra due Umarell all'entrata alla metropolitana, c'erano esattamente le stesse cose. Parlavano, non so, di una trasmissione che ho visto ieri in televisione, del caso Cosentino di Di Pietro. Ne parlavano come se loro fossero dei profondi analisti della realtà. Uno dei due Marelle rappresenta naturalmente il pensiero conservatore, oggi si dice liberale, più bieco, l'altro rappresentava, normalmente per reminiscenze di frequentazione della sezione del PC del suo quartiere, rappresentava il pensiero opposto. Beh, erano la sintesi esatta delle due famiglie, dei coatti e dei radical chic, che si incontrano in vacanza nel film di Virzì. Il tempo non è passato, appunto, dal 95, si vive in un eterno presente in cui la spaccatura fra tifoserie ideologiche di superficie, ciascuna con i suoi cliché, che non entrano nella carne viva dei problemi politici o delle riflessioni, però appunto qui sono sintetizzati da Silvio Orlando, che appunto è sempre un po' il brutto, però che ispira tenerezza nel femminile. Silvio Orlando, a me non è mai ispirato a un briciolo, allora è utilizzato sempre questo brutto malinconico, un po' questo anatroccolo, insomma, da carezzare, cioè, sulla pochi testa. Personaggi mi sono stati sul picchio come quelli che non lui nella persona, non lo conosco, che lui interpreta nei suoi film. Però è un cliché del cinema italiano, è un virus che è entrato proprio, che si è consolidato, si è installato definitivamente nel cinema italiano da ormai da... Abbiamo l'ascoltatrice Cristina, prendiamola per i capelli prima che fugga, perché sono resti gli ascoltatori in questa nuova formula, non si sentono di poter partecipare, dice noi non ne sappiamo niente di queste cose. Cristina, grazie. Pronto, per buongiorno. Esistere. Sì. Saluto a tutti, congratulazioni a lei. Sì, sì, tagliamo questa parte. Io cappello non ho fatto la condivisione, io sono proprio sfavorevole alla condivisione, perché mi sento come che mi stanno rubando la personalità. Oh, finalmente un sano, radicale, viscerale, sincero, egoista. Bene, sono contento. Sì. Allora, quali sono i momenti di condivisione più spiacevoli a cui è costretta? Lei prenderà degli autobus, delle metropolitane? No, maggior colore della mia macchina, che tutti l'apprezzano. Com'è, verde vomito? No, no, è Violetto Monello. E dove l'ha trovata Violetto Monello? Ah, è la Panda, no? L'ultima uscita. Ah, Violetto Monello, si chiama proprio così. Che sfumatura è il Monello? Che sfumatura? È tipo melanzana. Cioè lei si suppone che lei abbia sfranto contro un muro Monello con la sua macchina e lo schizzo di Monello l'abbia fatta Violetta. Sì, sì, mi sono innamorata della terminologia. Ah. Sì, per non dire prugna, che brutto. Ha delle assonanze a volte non. Sì, no, me l'hanno pure considerata a occhio pesto, Sì. No, lei ha già la macchina viola, già quindi passa come una traccia di sfiga, non mi toccate, sì. Quando va per strada. No, sì. Però qual è la cosa che più le dà fastidio? Quando qualcuno le sfiora con le dita unte lo sportello della macchina, forse? Da morire. Ma quello che mi dà più fastidio è la conoscenza, cioè lo studio, una persona si deve informare e non può condividere dopo che mi ha rubato un mio concetto, il mio personale, cioè io l'ho rielaborato dopo vari studi. Ma che è il ladro? Chi è il ladro? Chi è cosa le hanno portato via, Cristiano? È un concetto a livello di amicizia, io sono molto rigida. Molto rigida? Sì, ho una formazione con criteri fondati. Ha avuto un'educazione severa, diciamo. Ma no, no, non è stata severa. È stata semplicemente così. Ma io cosa... sono molto... Quindi lei, in cosa hanno violato questa sua riservatezza? È perché si sono permessi di giudicare errato il mio concetto di vita e poi dopo anni, tipo... Ma questo chi l'ha fatto? Anni. Questo chi l'ha fatto? È un mio amico. Vabbè, vada, non, che lei astrae. Vada, allora, un amico ha osato dire una volta che io così ero soltanto una acida zitella o qualcosa del genere, ha detto. No, che secondo lui questo concetto di vita che io estraniavo non era, lui non lo condivideva, meno male. Però dopo 15 anni l'ha messo in pratica. Cioè, c'è stata un'intimidazione, vi siete conosciuti meglio? Sì, ma io l'ho allontanata subito. Vabbè, che vuol dire? Una volta lambito il frutto del piacere, ha fatto bene allontanarlo. Cristina, la sua storia quadra perfettamente. Poi non so se era quella, ma gliel'ho fatta dire così. Roberto. Buongiorno, Nicoletti. Sì. È un piacere sentirla. Senta, io stavo ascoltando la radio, mi sono venute in mente alcuni episodi che ho vissuto. La forzata condivisione con esseri umani che... È diciamo l'antitesi alla più moderna e contemporanea filosofia della condivisione, questo è il tema. Esatto, esatto. Io non vivo, sono di Roma, non vivo a Roma, vivo lontano e quindi mi mancano gli amici, le persone che frequentavo, ho frequentato per anni. E ora che sono lontano sento la loro mancanza e mi capita, ogni tanto capita che mi vengano a trovare, fortunatamente, o che io vada a Roma e quindi ho opportunità di stare insieme. Però nel momento in cui c'è questo avvicinamento proprio fisico, questa voglia sparisce. La vedo come, non so se definirla un'invasione. Accade anche nei più saldi matrimoni qualcosa del genere. Uno vorrebbe, però quando poi le persone stanno vicino, le famiglie ci soffocano con la loro affettività, noi rimpiangiamo i momenti in cui stiamo da soli. Quindi lei, esatto, gli amici li rimpiange, li ricorda, ma quando se li trova che fanno una rimpatriata a casa sua, ma qual è, vorrei sapere concretamente, l'oggetto del fastidio? Che con le scarpe sporche camminano sul pavimento, che con gli abiti impelacchiati di cani e gatti altrui le siedono sui divani, che vanno al suo gabinetto, gliela fanno sulla tavoletta, che mangiano e lasciano sporco in cucina. Voglio sapere nel concreto, in cui il peso dell'umanità ci soverchia e ci impedisce di godercela. Guardi, questo che ha detto lei è tutto vero, perché per carattere sono così, quindi me ne può fare 100 di questi esempi. Io ma me ne aggiunga qualcuno, sennò dico le mie di nevrosi. No, guardi, e sapere io ne faccio una questione proprio di tempo, cioè io più che un oggetto, è il tempo. Cioè è come se non riuscissi più a gestire il mio tempo, quindi non è una questione di oggetti. Sì, gli oggetti va bene, se mi graffio nel parquet mi dà fastidio, però quello è relativo, si può riparare. Però se il mio tempo viene occupato, no, da questa tra virgolette invasione, è come, ecco, se mi graffiassero il parquet. L'esempio è proprio il tempo, cioè è il sassolino che parquet dell'anima. Sì, parquet dell'anima. Noi diciamo la nostra anima è un lucido pavimento su cui abbiamo investito notevolmente, teniamo pulito a specchio e camminiamo senza scarpe a casa. Che alcune persone a casa propria non fanno mettere le scarpe. Io conosco gente che non fa mettere le scarpe quando entra a casa. Passa qualcuno e te lo riga col sassolino incastrato sotto. Questo è già un esempio. Antonietta. Sì, buongiorno a voi. Cosa le pesa dell'umanità che non vorrebbe condividere? Io praticamente frequento senza pregiudizi una spiaggia libera tutte le estate. Libera di nudisti, spiaggia... cosa vuol dire? Libera nel senso che non è uno stabilimento balneare. Che può andarci chiunque, sì. Ci può andare chiunque, quindi io gradisco andare in quella spiaggia perché è vicino casa, mi è comoda camminare perché ho già 63 anni e camminare sugli scogli insomma un po' faticoso, mi piace, lì c'è un po' di sabbia e riesco a starci. Cammina insomma sulla battigia e fa bene, sì, tanto alle vene varicose, dicono. Si cammina sul lungo, io vedo questa fila di signore e signore la mattina, fanno chilometri e chilometri. No, a me è solo un problema di ginocchia. La prevenzione è importante. Allora dicevo, quindi frequento quella un po' perché anche è bella, voglio dire, sì. Sembra un piccolo Caraibi. E cosa vede? E cosa vede? Bene, quando io arrivo, arrivo verso le 11, insomma, per stare un paio d'ore o qualche volta a cavallo dell'ora di pranzo, dipende dagli impegni di lavoro. Ebbene, all'ora di pranzo praticamente, verso l'una alle due, c'è la discesa, dico io, dei lanzi. Arrivano. Beh, è l'ora del fagottaro, scusi, lei la sceglie proprio. No, ma d'estate, sai, con le ferie, anche loro sono liberi a quell'ora, se vogliono. Certo, lo so, purtroppo non li tengono chiusi nei recinti, quello è il fatto. E quindi li vedi arrivare bene, piantare proprio. Io ho il mio ombrellino piccolo, non l'ombrellone, perché non mi piace proprio portarlo. Loro portano i container, certo. Portano i così. Arrivano proprio con le macchine sulla spiaggia, aprono il cofano, messo di fronte al mare e scaricano tutto il ben di Dio che hanno lì dentro. Io non so come fanno a caricare tutte quelle sedie. Sono famiglie numerose, Antonietta. Guardi, fermiamoci un secondo, devo dare la linea alle informazioni della borsa. Resti un attimo in attesa, si concentri sui tre elementi più orrendi di questa sua esperienza, li dirà fra un istante. Melog, la realtà condivisa. Questa è casa mia, frappicata con le mani mie, pantone su pantone, e poi ci abitate come all'albergo, a gratis, e senza cacciare una lira. Bello, bello, zio, bacio il cuore, brrr, io me lo mangerebbe, bello, oppla, oppla, dolce. Ma che sei matto, ma io ho il sangue alla testa, no. Ma chi è che strilli? È buco, no. Infatti, capirai per quello che stai costando. Ma vada. A Gaetano, mi votaste 5.000 lire, sì o no? Il milione è mio e nessuno me lo tocca. Almeno dammene 3.000. Sfruttatori profittanti. Dammene 2.000, sennò come ci vado a cercarmi il lavoro? A piedi? Che cerchi? Tu cerchi lavoro e preghi la Madonna di non trovarlo. E voi fate vedere che mi sta scrivendo? A te, sto aspettando. Sei in affetto, un moment. Forza, nascite. Ma io vi caccio da casa tutti quanti siete. Eccoli tutti, brutti, sporchi e cattivi, come una volta erano i baraccati del quartiere Montemario, più o meno da quelle parti di Roma. Ecco. Cosa si vede in questo film? Giuseppe Sansone, oggi stiamo parlando della condivisione che non vorremmo mai avere nella vita, che allucinamo, amiamo, vezzeggiamo, impugniamo come filosofia nella rete, ma nella vita poi ci dà fastidio vedere qualcuno con i piedi dall'offrore un po' pesante a soltanto un metro di distanza. Infatti infiliamo il naso impavido negli affrori familiari condivisi della famiglia capeggiata dal pater familias molto truce, con l'occhio sifolino, mezzo guercio, col fucile sul tavolino che regge questa famiglia in cui si vive in questo baraccato su Valle Aurelia, era appunto nella periferia nord di Roma, e col fucile appunto controlla che nessuno gli rubi il denaro. In questa baracca che lui stesso ha costruito, questa famiglia di pugliesi, traslata appunto a Roma alla ricerca di fortuna. E qui è una condizione che nel film è molto espressionista, è molto caricata a tinte forti, iperrealista, però è una situazione che spesso si verificava anche... No, questo fino agli anni 70, sotto il ponte che va da Piazzale degli Eroi verso Via Baldo degli Ubaldi. Gli esterni sono nella vera baraccopoli, poi gli interni hanno fatto Cinecittà, ma gli esterni sono stati girati lì, però erano situazioni condivise un po' in tutta Italia, anche negli emigranti, anche nelle case torinesi. Via di Valmelaina, ci sono le grotte, erano abitate ai fine tempi di Pasolini, fino agli anni 70, le grotte di Valmelaina c'erano delle famiglie, facevano un muretto, quindi non era lontana. Sì. Però allora gli brutti e sporchi cattivi erano isolati, perlomeno stavano nelle baracche, stavano nelle grotticelle, stavano alle periferie. Invece la nostra ascoltatrice Antonietta, quando va a fare il pediluvio mattutino, nel suo lecito momento di spiaggia libera, è contaminata dai fagottari. Antonietta, riprendiamo con lei. Ha focalizzato i tre punti che le danno più fastidio. Sì, perché praticamente avviene l'opposto di quello che stava adesso raccontando e narrando, che avviene nel film dei brutti e sporchi e cattivi, che non vogliono, lì nel film non vogliono che nessuno contamini la loro baracca, diciamo paradossalmente. Invece nella mia situazione loro hanno voglia di inglobare te nel loro eh sì, la burineria è un magma che deve mangiarsi tutto. Praticamente ti vengono addosso, ti costringono quasi a sloggiare di lì, ma io imperterrita non me ne vado di lì, perché è spazio mio lì dove mi sono messa. Dalla buccia di cocomero difficilmente ci si salva. Però appunto a me non va di assistere a quello che mangiano, come mangiano, i rutti che fanno, la birra che bevono. Capita, rutti, anche peggio. Rutti, anche peggio. Poi si uniscono con le altre che arrivano e fanno un tutt'uno. Praticamente la spiaggia è qualcosa... Un'orda. Sarebbe comico, sarebbe veramente da riprendere una propria... Antonietta, il mondo va così, non ci possiamo fare nulla. La barbarie imperversa conquista spazi, va dal mare sull'albeggiare quando i burini ancora russano, mangiano e fanno emissioni intestinali, quindi lei avrà il mare per sé e rifugga, si richiuda nel suo avello nel momento in cui loro scendono in spiaggia. Piero. Sì, buongiorno. Eccomi. Senta, io ho un'esperienza di responsabile di una casa di riposo. Vabbè, è una giusta e ammirevole operazione, non suo parlare di peso. Devo dire che cercavo di porre una particolare attenzione nell'inserimento dei nuovi ospiti. La casa di riposo, niente da dire, era l'aspetto umano che più mi porto dietro anche dopo che ho smesso quel tipo di attività. L'umanità ha un suo peso, è inutile negarlo, è un atto di carità estremo e di considerazione e di forzatura sul proprio istinto, quello di soprattutto in certi luoghi, che dice lei, è benedetta l'operazione di persone come lei. Perché stanno lì gli anziani? Perché nessuno li vuole più in casa, nessuno li vuole più vicino, nessuno si vuole più occupare di loro. Quindi vede che questa grande condivisione, che è bellissimo avere 10.000 persone su Facebook con cui ci si dice la nuvola della mattina, sembra un quadro espressionista, ma avere un papà, una mamma in casa che magari sono un po' toccati, o perché magari non hanno più quel fresco odore di pelle splendente che comincia a perdersi dopo 50 anni, io mi annuso tutte le mattine e quando puzzerò di naftalina dirò: per me è venuto il momento dell'esclusione dalla società. Luca, buongiorno. Ciao Gianluca. La mia è un'esperienza che è stata a fine degli anni Ottanta in un campo militare in Sardegna, in cui la cosa che mi è rimasta più impressa era l'utilizzo... Dove? A Macomer? Dove sei stato? Ma no, sì, eravamo nella zona di Capoteulada. Ah, bene, sì. Ancora bei tempi in cui qualche figlio maschio delle famiglie faceva il militare, io penso che è stato uno dei pochi ultimi che l'ha fatto. La mia generazione nessuno ha fatto più il soldato. Però era una bella esperienza. A molti farebbe bene. Guardi, adesso sarò preso a sassate fuori dalla porta di Radio 24. La ricordo con grande nostalgia. Il giorno che uscì dalla caserma dei Lancieri di Montebello a Roma, mi venne un momento nostalgico: ma perché me ne vado? Quanto piacerebbe stare lì? Non avevo responsabilità, non avevo pesi, tutti pensavano alla mia vita minuto per minuto, ero felice. Prego, però ci sono degli aspetti di condivisione quando uno è militare, il famoso odore di scarpone. Esatto, l'utilizzo, mi ricorderò sempre, delle latrine da campo all'interno, era un luglio tra l'altro, era un periodo torrido, l'acqua razionata, perciò dopo all'interno delle latrine non c'era acqua, conseguentemente una volta che uno aveva fatto i suoi bisogni limitava al minimo i suoi rapporti personali con gli altri, eh sì, perché che... ci si puliva secco, diciamolo, ci si puliva secco, esatto. Perciò sono stati un mese in cui proprio avevi questa sensazione di il rapporto con gli altri molto forte. Sa, oggi la stessa esatta idea della condivisione degli spazi di intimità fisiologica più personali. Ora non so, ma anche nelle famiglie più coese il momento dell'intimità nel gabinetto è un momento sacro. Ci sono persone, mi hanno detto, che fanno allontanare tutti, non vogliono nessuno nel raggio di 20 metri dal bagno, alzano la radio, mettono la televisione, accendono tutti i vaporizzatori possibili, insomma vogliono quel momento in cui noi siamo simili ai cani che vanno per strada, almeno lo facciamo da soli. Quando fa come il militare? Come quei famosi bagni giapponesi con la musica. Ma favoloso, i giapponesi, che sono un popolo civilissimo, fanno dei bagni come ti siedi, parte musica, nuvole di vapore, getti di aratri di fuoco che ti solcano e ti puliscono nei più recessi più intimi, esci fuori che sei come nuovo. Però quando uno fa il militare, questo è bene che lo sappiano i ragazzi che si esaltano a guardare il Grande Fratello e gli sembra un momento di altissima condivisione vedere quelle signorine che dicono vado a far la cacca, ciao, e tutte intorno che ridono, è un grande shock. Tu esci fighettino, ragazzo di buona famiglia, abituato a dei bagni puliti che la mamma ti tiene perfetto con il via calle, che non c'è ombra di passaggio umano, ti ritrovi a doverla fare insieme a altre 20 persone in dei bagni che hanno delle porticine come i saloon nel Far West, dove poi se tu sei appena arrivato, quindi sei una recluta, ti tirano secchiate d'acqua di peggio da sopra e roba del genere. Erano gli anni quelli, sì. Gli anni quelli. Quindi lei ricorda, dopo questo training è pronto a qualunque cosa? Assolutamente. Da allora poi, da quando sono tornato, tutta la schizzinosità che poteva avere il ragazzino di 18 anni è passata. Qualcosa serviva. E oggi la schizzinosità passa perché uno guarda un reality show e dice quanto mi piacerebbe stare chiuso in una stanza per alcuni mesi con una ventina di altre persone che non conosco e fare tutto assieme. Questa storia non mi sembra seria, stanno spegnendo le luci. Ormai dobbiamo prendere una decisione. Io direi di andarcene. Si arrangino pure se sono ubriachi o sono diventati matti. È il colmo. Questo poi è inconcepibile. Se non fosse per il rispetto che deve ai nostri anfitrioni, mi piacerebbe dare una lezione a quel villano. Questi vestiti così rigidi sono fatti per le statue, non per gli uomini, soprattutto alle 5 della mattina. Togliersi persino la giacca. Non credi che stia esagerando? Non dimenticare che Leandro vive negli Stati Uniti. Inoltre questa è l'ora in cui il corpo raggiunge il massimo della depressione. E con questa temperatura così... Vedrai, quando si renderanno conto della loro condotta si vergogneranno come ladri. Certamente. Giuseppe Sazzonna, quasi in un momento di puro surrealismo cinematografico, in cui il salotto di una casa trasforma in una prigione, però le cui pareti e le cui sbarre sono invisibili, in cui accade di tutto. Una sorta di incantesimo che subisce l'alta borghesia messicana, osservata dall'occhio da entomologo di Buñuel. Siamo molto globalizzata, potrebbe essere il nostro salotto, il salotto chiunque. È una borghesia metafisica. Era Yankee l'occhio in cui guardava naturalmente queste persone. Sì. Sono prigionieri delle loro convenzioni, non riescono a uscire, rimangono ostaggi di questa casa per 20 giorni, questa casa in cui si aggira questa sorta di angelo sterminatore che in realtà è un orso bruno. E quindi sono una serie anche greggi di pecore passano. Di cui loro si cibano di agnelli, insomma, poi riusciranno a uscire e invece diventeranno ostaggio di una chiesa e finisce così, ostaggi, punto. 800 24 0024, ci fermiamo un istante, continuate a suggerire quali sono le vostre più profonde e radicali paure di contaminazione, che è il termine negativo che noi applichiamo a questa fantastica, meravigliosa e moderna idea della condivisione. Melog, la realtà condivisa. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta. Già. Sì. Allora, dichiarami la seduta! Di notte! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un curluto! Lei deve ancora terrazzo! Eccole! L'antitesi radicale a questo concetto fantastico della condivisione, ma anche la contaminazione, voglio contaminarmi, contaminiamo. C'è una cosa fantastica quando si parla di condivisione di spazi incorpori, impalpabili, di sentimenti, di emozioni, di simulazioni di se stessi che noi distribuiamo con generosità al nostro prossimo. Un po' più difficile quando le persone con le quali abbiamo già un rapporto promiscuo, il vicino di casa, di cui sentiamo il sospiro, il respiro, l'evacuazione, l'accoppiamento, tutto, di cui contiamo ogni momento, ogni frequenza, ogni palpito, ogni respiro, ogni litigio, ogni gioia, ogni momento in cui esulta, momento in cui si deprime. Quando lo vediamo nella riunione di condominio abbiamo modo di dirglielo in faccia realmente. Sentite questo tutitin, è Twitter che tengo acceso, in cui adesso ho delle notizie fantastiche, Marta Cagnola che in viaggio ci segue e tutti entusiasti per il filmato che abbiamo pubblicato su Twitter per farvi capire lo spessore di queste moderne propaggini. Nella pausa delle informazioni del traffico il professor Chiappini ha schiacciato finalmente il moscone che ci stava tartassando e abbiamo pensato di pubblicare il video di questo atto di caccia grossa e tutti sono felici. Prego Giuseppe. Paolo Villaggio rimane il nostro gogol minore, appunto descrive questa assemblea di condominio che è un momento, una summa della socialità italiana, in fondo una replica in minore del Parlamento in cui ognuno riversa le proprie frustrazioni, la propria violenza, la propria voglia di affermazione sull'altro, appunto i motivi possono essere il fiato pieno di nicotina del vicino che si è annidato nell'ascensore o problemi di autoclave, problemi di caldaia. Io sto entrando da poco in una casa e già comincio a percepire iaghesche confessioni di qualcuno che mi dice lei, attento perché lei ha diritto a un posto macchina e glielo stanno rubando quelli del vicino a fianco, no? Quindi sì, già, accade anche, conosco già, questa cosa, ho già nell'ambiguità del posto macchina che non si sa bene sì. Se si può, se non si può, ci sono umarel che vivono praticamente spostando macchine 127 Panda in modo che ci sia sempre un posto macchina a loro disposizione occupato. Queste sono le cose che ti portano all'omicidio in realtà. Sì, conflitti all'arma bianca. Marco, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, io lo ringrazio prima di tutto perché lei mi fa fare delle matte risate con i suoi sproloqui mattutini. Va bene, mi fa piacere di fare il comico, andiamo avanti. Sì, veramente, io devo fare un elogio grandissimo. Comunque la chiederei di appoggiarmi in una crociata che sto conducendo da solo contro l'alito panelliano, lo chiamo io. È quello che emettono tutte le persone che si prendono solo un caffè al mattino. L'alito fognato che dice Fantozzi, ecco. Prego? L'alito fognato dice Fantozzi. No, io l'ho ribattezzato panelliano durante quando erano seri, i digiuni di Pannella, l'alito era mortifero. Io non ho mai avuto rapporti promiscui con Pannella, non so dirgli come abbia l'alito. No, vicino, mi sono avvicinato una volta e sono rimasto... ho dovuto allontanarmi di corsa. Vabbè, comunque, chi è digiuno sono i chetoni che si sa che si muovono. È un disastro. Però con il caffè vengono aumentati. Ho capito. Allora io vado dotato da anni di Golia Verde, poi di Daygam. A lei offre la mentina, che è un gesto di disprezzo esatto. Estremo. Vuoi una gomma? Vuol dire però c'è lei. Devo prima imbottirmi io perché la maniera buona di proporre una cosa è quella. Non posso dire prendi questa caramella, no, per l'alito. Allora devo prima la metto io, me la ingoio e dopo la offro. Lei è convinto di avere un alito fragrante, naturalmente? No, io è fragrante continuamente. Ah, perché si imbottisce di mentine? D'obbligo, perché ognuno che mi si avvicina, o quasi, alla mattina. Ma la mentina, guardi, le dico, non risolve il problema. Ci sono problemi di tipo dentale o di digestione o di fegato, via dicendo. Ahimè, la è un debole baluardo. Comunque lei ha reso benissimo l'idea. Sì, lo so, è purtroppo un problema. Se dobbiamo convivere con gli esseri umani sono fatti anche di questo. All'interno del nostro corpo c'è un'officina in continuo ribollimento, quindi qualcosa si brucia, qualcosa è pronto a essere buttato via e diciamo. I vapori mefitici di questa operazione che sta al nostro interno, qualcuno li fa sentire più, qualcuno meno. Giuseppe Sanson. Salini parlava dei corpi in decomposizione permanente, quindi adesso andiamo avanti, abbiamo toccato già il fondo, quindi possiamo che risalire. Yeah. Veniamo a pulire la cabina. Sono due cameriere molto solide. Sì, ma le preferisco strapazzate. Entrate, ragazze, la cabina è tutta vostra. Però fate presto, perché fra un po' aspetto una signora. Ehi, Tommaso, sveglia. Sì, sono venuti a rifare il letto. Scusi, non potrei avere due cuscini sul mio letto? su, su, stai dritto. Ma siete sicuri che dorma? Da come la vedo io, se non lo svegliate presto si ritrova padre. No, sta sognando. Già, fa gli stessi sogni che sto facendo io. Beh, purtroppo soffre di insonnia. Giuseppe Sansonna, in quale altro momento di forzata promiscuità ci stiamo muovendo? Qui siamo nella patafisica dei fratelli Marx. C'è Groucho Marx che accoglie nella sua cabina sulla nave, oltre ai fratelli Harpo e Chico, e tutta una serie di inservienti, di gente che viene a rifare i letti, di steward che portano cibo, e tutti riescono ad entrare in questa cabina di 2 metri per 1. Ci sono 50 persone che si mettono i piedi in testa, che si accavallano l'un l'altro. Però mi sei mancato nella tua fornitura, perché non hai messo la scena di Fantozzi nel vagone del treno quando vanno alla settimana bianca? Bellissima quella di cui Calboni emerge come campione di flatulazio putrex. Quella è fondamentale. No, l'evochiamo noi, e incolpano Fantozzi. Sentiamo Enrico. Ciao, io sono Enrico e chiamo da Genova. Io, a me fondamentalmente quello che più mi irrita proprio dell'umanità è il fatto che determinati condizionamenti, atteggiamenti, paranoia a volte delle persone, soprattutto quando ci vivi a stretto contatto, entrano dentro e nel momento diciamo più sbagliato della tua vita riescono a saltare fuori. E sono lame acuminate che poi segnano anche noi, abbiamo degli scompensi, non siamo più lucidi, anche noi stessi veniamo contaminati da queste paranoie. Dimmene qualcuna. Ma fobie stupide dettate dalla paura fondamentalmente di... Mi viene semplicemente esempio il chiudere il gas ogni volta che si va a dormire, quando ci sono tutto un sistema di sicurezza, ormai di sicurezze, il controllare tutte le spine che vengono appunto staccate dalle pareti, chiudere la chiave, la porta di casa, chiudere la porta di casa perché c'è la fobia dei ladri che vengano a prendere in casa. E lei pensa sentirsi dire nel cuore della notte: ma è chiuso la porta di casa, vai a controllare, io non so alzare e andarla a chiudere. Accade, ma hanno raccontato in certe famiglie. Poi sì, andiamo avanti. E poi tante altre piccole stronzate, cioè, cavolate. Sì, uguale. Che in questo momento le danze soltanto ricordarle, quindi rispetto il suo stato d'animo, e passiamo a Massimiliano. Sì, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno sì. Dottor Sansonna. Sì. Io volevo raccontare... Sembrava una clinica, tutti i dottori. Sì, è dottore radiologo, però. Anch'io, c'ho un mezzo medico. Io chiamo da Milano e mi hanno detto che da Roma in giù è d'uso... Guardi, forse è tempo di dottore Peppino. Comunque, andiamo avanti. Allora, io volevo raccontarle una cosa. Quest'estate sono stato con una mia amica, siamo stati una decina di giorni, a Riccione in un hotel 5 stelle. E noi ci divertiamo... Ah, bella botta di vita, complimenti. Sì, beh, insomma, ci siamo concessi questa vacanza dopo tanto lavoro. Dicevo, noi ci divertivamo appunto a immaginare tutto l'opposto di quello che vivevamo. Tipo? Perché noi chiaramente eravamo lì in un contesto di massima discrezione e ci divertivamo a immaginare l'opposto, del tipo in spiaggia magari non si sentiva volare una mosca e noi magari pensavamo: ecco, adesso arriverebbero qui. Se fossimo in un'altra situazione, arriverebbero qua i bambini. Però vede, in queste vacanze di Natale, 3 uomini politici che il loro pieno diritto sono andati alle Maldive, sono stati tutti beccati, tutti fotografati, sono tutti dovuti giustificare, chi in viaggio di nozze, chi per errore, chi per sbaglio. Quindi vede, non esiste luogo in cui si possa fuggire dalla contaminazione della presenza umana. A lunedì.